Allora, bambini, Ioris, Alberto, ci siete? Ciao, sì. Allora, avete capito come funziona la nostra enciclopedia, sì, giusto? Sì, si gira la ruota, viene fuori una lettera e poi una parola. Sì. Allora, dai, chi bisogna fa girare la ruotona? Io, no? No. Aspetta, vabbè, adesso non litighiamo su queste cose. Vabbè, la giro io e basta. Allora... No, come Drago, ma no. Come Drago? Beh sì, Drago, poi bisogna fare K anche per la par condicio, quindi lasciamo quello, perdere. Ma il Drago, bello, cosa... Drago, fuoco. No, vabbè, certo, no, i bambini piacciono. Perché... No? Sì, vabbè. Ma... Io facciamo... sono divertente. Ah no, il Drago, quello che sputa il fuoco. Certo, il Drago cavalieri. Non va bene. No, dai, lasciamo perdere. Facciamo di come Domodossola. Di come Domodossola, vi va bene Domodossola come argomento? Nel senso, è una specie di stato d'animo. Allora stiamo sull'attualità. Di come divorzio. Vabbè, bambini, voi come lo sapete divorzio? Cos'è è il divorzio? Perché? Anche sì, perché ormai si divorzia più di quanto ci si sposi, l'ho letto, e quindi... Sì, però, questa è una notizia. Sì, questa è una notizia, bisogna anche spiegarlo ai bambini, è sempre un po' doloroso, perché se per mamma e papà magari è l'inizio di una nuova vita, per i bambini è sempre l'inizio di un incubo, no? In realtà l'incubo è per i mariti, Drago. Beh, insomma... Perché si indebitano per pagare gli alimenti lo so, e in questo periodo di crisi non sai quanti mariti... divorziati alimentandi ci sono nelle mense per i poveri. Poveri che vengono alimentati però male, perché insomma si mangia male. Truck driver divorce, it's very sad. Steel guitars, usually we ball over it. Bold and intelligent masters of the road with their secret language. Vedi, Frank Zappa, che di solito era cinico, aveva preso a cuore il destino di questi poveri mariti indebitati. It's very sad. È molto triste. In questo caso è il divorzio del camionista. Truck driver divorce. Un camionista che guida ogni giorno un bestione della strada, mentre un bestione vero e proprio tiene compagnia alla moglie. Vabbè, ma l'infedeltà è la prima causa dei divorzi. Ma va? Ma lo sai che ho letto una statistica che racconta che la maggior parte dei divorzi, e quindi delle separazioni prima, comincia durante la luna di miele. Ma come durante la luna di miele? Ma sì, perché tu in luna di miele cosa fai? Vai nel paese esotico, insomma stai con tua moglie, dopo un po' però dici, beh, non so, faccio anche qualcos'altro, prendi la maschera, le pinne, gli occhiali e vai a fare snorkeling, a vedere i pesci sulla barriera corallina. Certo, ti diverti, no? E poi torni dallo snorkeling. È stato bellissimo! L'acqua era magnifica! Ho persino visto un pesce gatto capovolto! Judy! Judy! Ma dove sei, Judy? Judy! Judy! Judy, tu continui a fischiettare perché era colui che era con Judy che fischiettava il Semper Fidelis, ecco, no? Questa bravo. Aria che insomma non è un'aria, è una marcia, è una marcia che evoca la fedeltà eterna del come grande Sosa, come quella dei carabinieri. Va bene, allora Sosa. Però i divorzi, quelli del camionista e di queste donnine che insomma vanno quelle che tradiscono il marito nel viaggio di nozze, sì? Non sono così interessanti come i divorzi, quelli che invece costano milioni e milioni, perché certo. Insomma la classifica dei divorzi più cari è sempre aggiornata, perché finora mi pare che Mel Gibson avesse il record con 425 milioni di dollari passati alla moglie Robin Denise. Poi c'era, sì, a me è piaciuto lo scontro tra i due golfisti, perché Tiger Woods che ha dato 100 milioni di dollari a Elin Nordegren, mentre l'altro golfista meno famoso, Gregory John Norman, ne ha dati 105 milioni, quindi almeno in quello batteva Tiger Woods. Ma li ha dati alla moglie di Tiger Woods? Don't leave me this way. Questo è Tiger Woods. Ma no, questo è Otis Redding. Ma guarda che Tiger Woods che si lamenta di cosa? Ma lui è un golfista, scusa. Ma come di cosa? Cornuto, ammazziato, Greg Norman che I got no other place to stay. this way. I've got no other place to stay. Senti, Tiger Woods che si lamenta, non ho altri posti in cui stare. Non ha un'altra casa, voglio dire, ha lasciato la moglie un appartamento, qui starà in una suite, no? Ma che ne sai tu di Tiger Woods? Close that door, man. You told me you didn't love me anymore. Now don't leave me this way, because I got no other place to stay. Sua mazza da gol. Meno male che fa la sola, perché pensa tutto il giorno sul campo da golf che dice le stesse cose al caddy che gli porta la borsa con le mazze. Sviluppano un rapporto quasi fraterno, direi. Lei dice: lei mi ha buttato fuori i vestiti di casa. It is official now. Tiger Woods and his now ex-wife are divorced. They dissolved their marriage of nearly 6 years on Monday, ending 9 months of speculation and rumor, sparked of course by that now infamous car crash 9 months ago. And it began here with Andrew Canning. Caddy non ce la fa più. Don't you ever put me down. Dice, ma sì, ho capito, adesso vabbè, signor Tiger. Lei ha un sacco di soldi, può anche consolarsi, qualche poi si sa sempre consolato. No, ma il caddy parla delle mazze, cioè vuole un ferro 7 oppure il ferro 9, il ferro 9 che sai essere il ferro per dare le botte in testa alla moglie, per picchiare la moglie. No, il ferro 9 è il sand, serve per quando ti finisce la palla nel bunker. Dove le mette tutte ste mani? Ma poverino, I got no place to go, povero Tiger. Il suo problema è la casa. Dopo il divorzio è così. Beh, certo, il problema è la casa. La sì. Casa è un problema. È molto irritato dal fatto che non ha altri posti dove andare. Vabbè. Quindi vabbè, Tiger abbiamo Woods. Ha imparato che quando si divorzia il problema è la casa, cioè sì. A chi lascio la casa? A chi lascio a la chi casa? Resta la casa, perché sì, lascio è il testamento. Che cosa resta a me e dove posso andare al di là del fiume? A te in quanto marito, dire, sotto il ponte, divorziato. Esatto, certo. Bambino Alberto, hai capito allora che cosa vuol dire? Ma che cosa? Ma io non sono divorziato. Vabbè, il comunque divorzio. Sì, cioè, hai capito che è il problema del tu l'hai mai sentito dire divorzio prima di divorzio, oggi? Divorzio, ho capito che è divorzio dividendum, no? E sarebbe è un po' sì, no, bravo, sì. Esatto. Sì. In casa mia lo sento quando i miei genitori litigano. Sì. E mia madre urla sempre le stesse parole, no? Divorzio, lastrico. Ah. Lastrico? Lastrico! Ti lascio sul lastrico! Ah, ecco. E che io non capisco cosa vuol dire. Cioè. Te lo dico io cosa vuol dire. Lastrico vuol dire finire senza soldi e ti lascio sul lastrico vuol dire che con un divorzio puoi anche guadagnare 3 milioni al mese. 3 milioni al mese? Ma da pagare? Ma no, da pagare, da spendere, no? Ma tu ti immagini le cose che potresti fare con 3 milioni al mese? Ma chi? Io? Ma no, tu, io! Se potessi avere 3 milioni al mese, mi potrei comprare una casa in riva al mare, perché voglio fare su 1000 videogiochi. Forse sono pochi, a tutti studiare molto meglio stare a casa per giocare con la Wii. Una mini moto col motore turbo, e se poi mi gira una moto slitta per andare al Polo Sud. Se potessi avere 3 milioni al mese, senza esagerare, io sono certo di trovare tutta la felicità. È la felicità, perché sono 3 milioni al mese, 100.000 euro al giorno. Un programma di torniamo lunedì con un sacco di lettere e parole nuove. Grazie a Alberto Caserini, a Salvatore Iorio. Ma Iorio con la Y o con la I o con la J forse? Di solito con la J, non so, bisogna vedere D'Annunzio.